24 mattino. Stiamo attenti a Conte. Conte sta prendendo sempre più potere. Secondo me il nemico numero uno al quale si riferisce Di Maio è lui. Il primo punto che dovrebbero capire questi signori del Movimento 5 Stelle è che devono darsi una collocazione politica. Con due anime, una di destra e una di sinistra, non si va avanti. Scelgano da che parte stare, altrimenti si avvideranno sempre. E qualcuna delle riflessioni che troviamo oggi sui giornali si concentra proprio su questo tema destra e sinistra, mentre sulla questione di Conte e dei rapporti con Di Maio, beh, c'è qualche retroscena che invece dice che i due ne sono usciti da questa vicenda quasi d'amore e d'accordo. Seconda parte di 24 mattino, al microfono sempre Simone Spezia, alle 7:19 minuti e 26 secondi. Siamo nella parte dedicata alla rassegna stampa. I vostri messaggi sempre li potete mandare al 349-238-6666. Anche WhatsApp e anche WhatsApp audio, dei quali abbiamo sentito un paio di esempi poco fa. Diteci un po' anche come la pensate su questa vicenda di Di Maio, che domina le prime pagine dei quotidiani come prevedibile. Un Di Maio che lascia e accusa, pugnalate, come titola il Corriere della Sera. Un Di Maio che lascia e che lascia anche una mina nel governo, come titola il Messaggero. Un Di Maio che lascia con la guida del partito con un addio al veleno, stando alla Stampa. Un Di Maio che attacca e lascia il Movimento 5 Stelle o cambia o muore, come titola il Fatto Quotidiano. Per i 5 Stelle si salvi chi può, titola La Repubblica. La fine dei 5 Stelle, secondo il giornale. Sloggia il signor Nessuno, secondo Libero. L'era glaciale, titola il Manifesto. È il momento di rifondarsi, oggi si chiude un'era, gioca con queste parole. La Verità apre con l'Emilia Romagna. Il sistema PD in Emilia si regge sui parenti. A Ferrara l'amministrazione di sinistra ha dato oltre 1,2 milioni di euro alla COP della moglie dell'assessore. A Bologna fratelli e cugini ai vertici della sanità. Il Quotidiano Nazionale apre sul virus cinese, allertati i medici di base. Avvenire sulle parole del Papa di ieri a proposito dell'accoglienza. Cattiva accoglienza. Bassetti, in Italia i migranti sono spinti verso la marginalità e l'irregolarità. La Morgese dice integrazione decisiva, basta con il linguaggio di intolleranza. Un confronto appunto tra Bassetti e la Morgese. Il Sole 24 Ore apre con Trump che avverte l'Unione Europea subito un accordo o misure dolorose. Si parla naturalmente di dazi. La Gazzetta dello Sport, ovviamente, con la semifinale di Coppa Italia di ieri. Il titolo è CR Tutto. Dunque, iniziamo però, come sempre, da qualche storia diversa. Poi, nella parte centrale della nostra rassegna stampa, verremo alla parte più strettamente politica. Più strettamente politica e anche economica. Parleremo ovviamente anche di Davos e parleremo anche di questa cosa che, insomma, si fatica a trovare sulle prime pagine dei giornali, però, insomma, pur restando sotto traccia, è importante, ossia il fatto che in Libia, insomma, la tregua pare non reggere per niente, ieri nuovi missili sull'aeroporto. Ci arriviamo. Prima però qualche elemento di cronaca italiana, se ci consentite, a iniziare da una decisione che fa discutere. E certo, è il regime carcerario che prevede questo, non è che c'è molto da dire, e però fa discutere lo stesso. Qualcuno di voi ricorderà la vicenda di Tommaso Onofri, 18 mesi, un bambino di un anno e mezzo, che fu rapito nel 2006 e poi ucciso poco dopo dalle persone che l'avevano rapito. Fra i responsabili c'era tra gli altri anche Antonella Conserva. Chi era Antonella Conserva? Era la donna che era considerata un po' la carceriera del piccolo Tommy, che era stata condannata insieme al compagno Mario Alessio, un muratore di casa presso gli Onofri. Ebbene, che è successo? Che ha ottenuto un permesso premio. Condannata a 24 anni di carcere per il sequestro di Tommaso Onofri, la 47enne Antonella Conserva ha goduto dunque di un beneficio. E siamo a pagina 17 del Corriere della Sera. Sono passati molti anni, ma ovviamente la cosa non manca di suscitare polemiche e di riaprire ferite nella famiglia nella famiglia vittima di tutto questo. A parlare la mamma di Tommy, Paola Pellinghelli, 56 anni, che dice: queste leggi devono cambiare, situazioni del genere non devono essere consentite, non solo per me ma per tante altre vittime. Il nostro è un fine pena mai. Prevedevo che sarebbe accaduto, però non pensavo che la vita di mio figlio valesse così poco. E poi c'è un altro punto che devo dire che è la parte che colpisce ulteriormente, insomma, rispetto a questa questione del permesso premio, che ripetiamo è prevista al regime carcerario, quindi non c'è niente di pazzesco, insomma, nell'eventualità, se si pensa e se si ritiene opportuno, nell'eventualità andrebbero cambiate le leggi. Dice la signora Pellinghelli: ha voltato pagina, ma la mancanza di Tommy sono 14 anni che ogni giorno si fa sentire. E dice: bisogna rivedere le norme, mi sento presa in giro. Ai detenuti è garantito lo psicologo gratis, io invece dopo 4 anni di psicofarmaci per non morire di dolore la psicoterapia me la sono dovuta pagare. E anche mio figlio Sebastiano, che ha 22 anni e che studia scienze motorie a Parma, ha avuto bisogno di un supporto. 6 anni fa è mancato mio marito, dopo 5 anni come un vegetale, ridotto così dal dolore che gli aveva stroncato il cuore. Denuncia quindi la signora Pellinghelli, almeno a suo giudizio naturalmente, questa differenza di trattamento, per così dire, tra i detenuti e le vittime di un fatto così grave. Torniamo su un tema, perché ci tornano ben due giornali, per quanto non sia proprio di primissimo piano, e però lo riteniamo rilevante perché continua a essere una testimonianza di un cattivo funzionamento di certi meccanismi del nostro paese, ed è il tema della ricostruzione post terremoto nel centro Italia. Pagina 17 del Quotidiano Nazionale, pagina 9 di Avvenire. Insomma, sono i due giornali che più ci fanno attenzione. Il Quotidiano Nazionale, tra l'altro, insomma, anche un'edizione che è collocata nell'Umbria e nelle Marche. Avvenire invece sta spingendo molto su questo tema e da molti giorni. Il tema qual è? Il tema è ancora una volta la burocrazia che impedisce di ricostruire, e ancora una volta un tema sul quale siamo tornati, è la terza volta che ci torniamo. Ci pare francamente incredibile che, nonostante tutte le proteste, il governo non sia ancora intervenuto su questo tema. Ossia, che cosa è successo? Che dato che nel nuovo decreto sisma non è previsto il rinnovo automatico per gli appalti per i luoghi nei quali depositare le macerie del terremoto, la raccolta delle macerie si è fermata completamente. Tanto che racconta il Quotidiano Nazionale in questo pezzo che si intitola Norcia, rinascita terremotata da timbri e bolli, che resta da sgomberare perfino la semidistrutta basilica di San Benedetto, che del sisma del 2016 è il simbolo, e una volta ripulita potrebbe anche fungere da volano positivo di animi e coscienze. È una storia che viene raccontata, come si diceva, anche da Avvenire, a pagina 9, che insomma entra un po' nel dettaglio di quello che sta succedendo. Parla per esempio della frazione di Campi di Norcia, la più devastata. Il progetto per lo spazio multifunzionale Back to Campi è stato fermato prima dal sequestro dell'area camper, dove avrebbe dovuto sorgere, e ora dalla burocrazia. Abbiamo raccolto donazioni private per realizzarla, ma per partire dobbiamo prima presentare la variazione di destinazione d'uso, perché quella è un'ex zona servizi, dice Roberto Sbriccoli, presidente della Proloco Campi. I tempi per la ripartenza? E chi li conosce? E dunque, di fatto, tutto, se non tutto, almeno una gran parte, resta fermo. Allora, molto abbiamo parlato nei giorni scorsi di questa proposta del sindaco di Milano, Beppe Giuseppe Sala, il quale dice: vietiamo di fumare nei pressi delle fermate di tram e autobus. E poi ha detto: vietiamolo anche allo stadio di San Siro. Arriva una proposta di legge, ci informa il Messaggero a pagina 16, il pezzo lo firma Emilio Pucci e racconta di questa proposta di legge presentata dalla maggioranza. Ci sono quasi l'intero gruppo del Movimento 5 Stelle, i renziani parente Nannicini, gli ex 5 Stelle Buccarella e Grassi, con il quale si chiede una stretta sulle sigarette anche elettroniche all'aperto. E attenzione, l'idea non riguarda solamente le fermate degli autobus, le fermate dei tram, non riguarda solamente gli stadi, ma riguarda praticamente tutti i luoghi all'aperto, gli spazi esterni di bar e ristoranti, le spiagge, i lidi, i parchi, le aree di gioco, i giardini pubblici, gli stadi, i campi sportivi, le piazze dove si tengono manifestazioni e concerti, banchine di attesa dei treni e fermate degli autobus e infine i siti dove ci sono monumenti pubblici di valore storico e artistico. La proposta è stata presentata ieri, è in Parlamento. Vedremo che cosa succederà. Di fatto c'è il voler vietare tanto le sigarette normali quanto le sigarette elettroniche. La lotta alla criminalità organizzata, e andiamo al Fatto Quotidiano, siamo a pagina 11, in un pezzo firmato da Lucio Musolino. Vi ricordo tra l'altro che alle 8:20 avremo il direttore della direzione investigativa antimafia, ospite nostro per parlare proprio di lotta alla criminalità organizzata. Ebbene, ci racconta Lucio Musolino da Reggio Calabria che si prepara, o meglio alcuni boss starebbero preparando un attentato contro Nicola Gratteri, il procuratore capo di Catanzaro. Un attentato con armi da guerra, tanto che è stata rafforzata la scorta. L'andrangheta vuole ancora uccidere il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Nei confronti del magistrato calabrese sarebbe pronto un attentato in grande stile, quanto emerge da alcune indagini che rivelano come alcuni boss abbiano messo a punto un piano per assoldare un killer contro il magistrato. Dunque la scorta nei suoi confronti è stata rafforzata. In occasione addirittura della manifestazione del 18 gennaio davanti alla procura furono piazzati dei cecchini dei carabinieri e della polizia sui tetti, proprio perché già si sapeva questa cosa, e adesso gli sono state fornite delle jeep rafforzate, delle macchine blindate, gli sono state sostituite con due jeep corazzate a prova di bomba, e la prefettura ha disposto la blindatura delle finestre del suo ufficio che si affaccia sulla piazza Falcone e Borsellino. Gratteri non intende commentare, ma è quello che succede adesso in Calabria. Una pausa. Mattino. Ed eccoci di nuovo. Dunque, la parte centrale della nostra rassegna stampa, quella dedicata ai grandi temi di giornata. Sicuramente c'è la vicenda di Luigi Di Maio, le questioni politiche, insomma, no? E tutto quello che ruota intorno a queste dimissioni del leader. Ci sono le elezioni in Emilia-Romagna, però consentitemi invece di iniziare da una questione di contesto un po' più larga, una questione di contesto internazionale. Forse il quotidiano che dedica più spazio a quello che è avvenuto ieri in Libia è il Messaggero. E siamo a pagina 13 perché un po', insomma, non vorremmo che dopo Berlino venisse dato tutto per fatto, cosa che non è per nulla. Cosa ci racconta il Messaggero? A pagina 13 con Cristiana Mangani, dei razzi lanciati ieri sull'aeroporto. Insomma, se ci aspettavamo che in Libia ci fosse una tregua a tutti gli effetti dopo il vertice di Berlino, dopo gli incontri di Mosca, questa tregua non c'è. Sei razzi Grad si sono abbattuti sull'aeroporto di Mitiga, l'unico in funzione a Tripoli. L'esercito del generale Khalifa Haftar ha imposto una no-fly zone, annunciando che avrebbe sparato contro qualsiasi velivolo in partenza dall'aeroporto. La fragile tregua viene violata puntualmente ieri in uno scambio reciproco di accuse. L'esercito del Feldmaresciallo e quello di Fayez al-Sarraj si sono confrontati anche a colpi di tweet. A colpire lo scalo sono state le milizie del criminale di guerra e ribelle Haftar, sostiene il colonnello e portavoce delle forze filo-governative GNU. Poco dopo è giunta la conferma da parte dell'aeroporto che ha sospeso tutti i voli fino a nuovo ordine. I tempi qua, insomma, non sono lunghi, ma non sono nemmeno brevissimi. A fine mese potrebbe essere decisa in una riunione, dovrebbe essere presa una decisione da parte della missione, da parte dell'Europa, per la missione europea da inviare nella zona, a cominciare dall'operazione Sophia, che però per Salamé, l'inviato delle Nazioni Unite, non basta. Le stesse Nazioni Unite riuniscono d'urgenza il Consiglio di Sicurezza, ma insomma, sembra che al momento non se ne esca, ed è un tema che resta al centro della scena, o meglio un po' laterale rispetto al dibattito italiano, ma resta al centro della scena. E prima ancora di andare in politica, anche qua un po' sotto traccia sui quotidiani se è tornata la vicenda della quale lungamente abbiamo parlato nei giorni scorsi, ossia la vicenda dei due papi. Il libro cofirmato da Josef Ratzinger, il papa emerito, insieme al cardinal Salah, che Salah è l'attaccante del Liverpool ed ex della Roma, ragazzi, abbiate pazienza. Firmato insieme al cardinale Sarà, nel quale parla del celibato dei preti. Cosa succede? Succede semplicemente che la firma di Benedetto XVI, dopo che si è detto verrà tolta dalla copertina, torna sulla copertina del libro. Lo racconta bene Matteo Mazzuzzi sul Foglio di oggi. Fine della storia. Ratzinger ha letto e condiviso i testi scritti dal cardinale Sarà. Tanto rumore per nulla. Il nome di Josef Ratzinger, Benedetto XVI, torna sulla copertina del libro Dal profondo del nostro cuore. Dal prossimo 30 gennaio in libreria per Centagalli nella traduzione italiana. Lo ha comunicato la stessa casa editrice con un comunicato nel quale si spiega come è strutturato il volume, mettendo fine a polemiche e chiacchiere varie sul ruolo più o meno rilevante avuto nella vicenda da Ratzinger. Il libro si legge, si compone di una nota del curatore, di un saggio inedito del Papa Emerito, di un saggio inedito del Cardinal Robert Sarà, di una introduzione e di una conclusione dello stesso Sarà. Quindi ecco svelato l'arcano. In realtà il testo di Benedetto XVI, quello che parla anche di del celibato dei preti, c'è. Le questioni politiche. Prima ancora di andare da Di Maio, andiamo da alcuni imbecilli. Ma sì, dai, partiamo da quelli dei quali ci racconta Il Giornale a pagina 7 con un pezzo di Andrea Cuomo. Ieri vi abbiamo raccontato dell'intervista dicendo che avrebbe fatto un discreto rumore di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, a favore di Salvini, a favore della Borgonzoni. Un'intervista che racconta qualche retroscena del giornale. Il staff di Salvini aveva annunciato da qualche giorno, aveva detto: occhio che adesso tra poco arriva un'intervista bomba, ed è l'intervista appunto a Sinisa Mihajlovic, al quotidiano nazionale, che dice: insomma, sono amico di Salvini, voglio votare, voterò per la Borgonzoni. E chi sono i cretini, chi sono gli imbecilli? Sono quelli che su Twitter, sui social, sapete, se ne trovano sempre, augurano a Mihajlovic di morire o che gli venga un altro tumore. Ne cita qualcuno, appunto Andrea Cuomo, nella pagina 7 del giornale. Sinisa Mihajlovic, scrive qualcuno, appoggia Borgonzoni ma si cura con la sanità di Bonaccini, qualsiasi cosa voglia dire. Speriamo muoia entro domenica, scrive un altro. Speriamo che gli venga un altro tumore, scrive un altro ancora. Nota a margine, scrive Cuomo: nessuno si è scagliato contro Ivan Zaitsev, il pallavolista italiano schiacciatore del Modena, detto lo zar, che posta una foto con il candidato del centrosinistra Bonaccini scrivendo "il mio presidente". Nessuno ha preso in giro le 35 calciatrici che hanno deciso di dire la nostra, come donne, come sportive, calciatrici ed ex calciatrici, che in questa regione ci sono nate, ci sono arrivate, hanno deciso di viverci o semplicemente ci sono passate, facendo un appello per Bonaccini. Così appunto Cuomo sul giornale. Siamo alle questioni politiche, quelle che hanno a che fare con Luigi Di Maio. Beh, oggi trovate un fiorire di retroscena, è sempre così in questi casi, quando avvengono fatti di questo genere. Le cronache le trovate un po' dappertutto. Il Corriere della Sera, a pagina 3, racconta questo addio di Di Maio anche con 6 rappresentazioni diverse del leader e 6 frasi. L'attacco dei fuoriusciti, l'importanza della fiducia, le competenze interne. Il leader, racconta Emanuele Buzzi a pagina 3 del Corriere della Sera, pensa già a rimettersi in campo. Le chiamate a Mattarella, Grillo e Casaleggio, il ministro potrebbe rientrare in un direttorio. E altro retroscena, quello con Conte. Su di me potrai sempre contare, siamo a pagina 4 del Corriere della Sera. Il saluto di Conte e quella cena segreta. Insomma, i due si sarebbero incontrati, avrebbero cenato anche insieme alle compagne e si sarebbero detti: siamo d'amore e d'accordo, il governo proseguirà. Altro retroscena. Federico Capurso e Ilario Lombardo a pagina 3 della Stampa. Lombardi, Taverna, Fico, le correnti alleate nella guerra all'ex leader. E quindi un po' a segnalare che qua c'è anche gente con visioni diverse che adesso è stata tenuta insieme dalla lotta, chiamiamola così, a Luigi Di Maio, e che adesso forse gente che adesso potrebbe nuovamente dividersi. Il Sole 24 Ore, e poi arriveremo tra un attimo con il nostro direttore Fabio Tamburini a sentire anche la sua su questa vicenda di Di Maio. Il Sole 24 Ore offre la cronaca, naturalmente, nelle parole di Conte che dice nessun impatto sul governo, un pezzo di Emanuela Perrone che ci racconta chi è candidato a succedere a Di Maio alla guida e l'ipotesi più probabile. Al momento il nome che si fa più frequentemente in queste ore, ma come sappiamo in questi casi forse fare un nome troppo presto vuol dire bruciarlo, è l'ipotesi governista, ossia quella di Patuanelli, il ministro alle attività produttive. E però ci presenta anche un commento di Lina Palmerini, il quale si intitola "I tentativi di scacciare la profezia della fine" e racconta un po', secondo me efficacemente, quello che può essere un po' il cul-de-sac nel quale si infila il Movimento 5 Stelle. Il tema è che ritrovare la connessione con gli elettori è un'impresa. Il primo riflesso è quello di arroccarsi ed è l'opzione scelta dagli strateghi pentastellati che, davanti al bivio di staccare la spina a Conte e tornare a essere quelli di una volta, preferiscono restare al governo e tentare di autoriformarsi nei prossimi 3 anni di legislatura. È una scelta coraggiosa, non solo perché le previsioni in politica non funzionano più, ma soprattutto perché la decisione è maturata all'interno di una classe dirigente che non vuole abbandonare la vita da parlamentare e da ministro, di qui poi l'accusa di alcuni di poltronismo. Sta anche qui il rischio di avverare la profezia della fine: non riuscire a governare, rinviare le decisioni o dividersi, ma voler restare alla guida del paese. E questo è quello che crea una distanza con gli elettori. Quindi distanza con gli elettori che rischia di ampliarsi, sia che tu rimanga al governo, sia che tu ne esca. Traffico. Vuoi aprire un'attività innovativa e di successo? Bene, sto cercando proprio te. Sono Super Zibaldo. Insieme possiamo fare grandi cose. Grazie a me potrai proporre a privati ed aziende tanti servizi, dall'apertura di conti ai finanziamenti, dai pagamenti alle ricariche, dai servizi postali a quelli digitali e tanto altro. Tutto in un unico negozio. Ti offrirò la formazione e ti affiancherò per le abilitazioni richieste. Registrati su zibaldo.it e riceverai un'offerta promo esclusiva per te. Scegli il franchising Zibaldo. Per te, oltre la banca. Mattino. Oh, come si diceva, mentre siamo qua un po' concentrati sul nostro ombelico, ossia sulle questioni politiche, ci torneremo tra un attimo naturalmente sulle questioni politiche perché ovviamente hanno un impatto sulla durata del governo e su tutto quanto, nel mondo succedono cose, a partire da quello che dicevamo in Libia e passando per le nuove minacce di Donald Trump che oggi sono l'apertura del Sole 24 Ore. Caro direttore Fabio Tamburini, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti, a pochi giorni dalle elezioni di domenica prossima in cui ne vedremo delle belle, ma hai ragione tu, sì. È inutile guardarci l'ombelico. Eccoci qua, dunque. Allora, con Fabio Tamburini, nostro direttore, direttore di Radio 24, del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Core, con questa apertura dedicata a Trump che avverte l'Unione Europea, dice subito un accordo commerciale ovviamente, o ci saranno misure dolorose. La minaccia riguarda soprattutto il settore auto, no? Trump ormai è incontenibile, ne vedremo delle belle da qui alla cadenza che più gli interessa, e cioè quella dell'autunno prossimo in cui ci terranno le elezioni americane, e lui punta con determinazione alla riconferma America First. Ha vinto le elezioni scorse alzando la voce, ha fatto il primo mandato combinandone di ogni. Ha visto che l'arroganza paga e di conseguenza tutto lascia pensare che continuerà su questa strada. L'avevamo previsto il giorno della pace con la Cina, pace peraltro provvisoria, avevamo titolato ora tocca all'Europa, e puntuale all'appuntamento sono arrivati gli strali di Trump contro l'Unione Europea. Minacciare aiuta ad aumentare la popolarità nell'elettorato medio degli Stati Uniti. Trump ha capito che così funziona e va avanti sulla strada che ha scelto. Sì, quindi anche lui per certi versi, come si dice, guarda il suo ombelico, ossia quello che succede negli Stati Uniti, perché lo sguardo è su quello, è sulle elezioni di novembre. Segnalo agli ascoltatori che qua c'è la questione delle auto che riguarda tutta Europa, ma c'è anche una questione che riguarda specificatamente l'Italia, lo racconta bene Riccardo Barlama, pagina 3 del Sole 24 Ore. Il tentativo è quello di evitare una doppia minaccia di dazi, ossia la possibilità di tariffe del 100%, i dazi del 100% sul nostro vino, se non sarà risolta la vicenda della web tax, sulla quale già si era soffermato nelle scorse ore il segretario del tesoro americano, sempre da Davos. Oggi tra l'altro il presidente del consiglio Conte sarà proprio là, e quindi vedremo che cosa ne emergerà. Beh, veniamo al nostro di ombelico, appunto, Fabio, alla questione delle dimissioni di Luigi Di Maio, che chiaramente, insomma, cambiano le cose. È curioso, diciamo, che avvenga prima delle elezioni in Emilia-Romagna e non dopo, però insomma è un segnale per il governo, secondo te? Ma penso che Di Maio abbia applicato il principio meglio prima che dopo, meglio giocare d'anticipo. Il Movimento 5 Stelle comunque andranno a finire le elezioni di domenica prossima in Emilia-Romagna e in Calabria, ha una certezza, tutti abbiamo una certezza, e cioè che il Movimento 5 Stelle uscirà tramortito, o si ipotizza un 5-6% in Emilia Romagna, quindi meglio andarsene prima che andarsene dopo con l'ignominia. A proposito di Di Maio, verrà il tempo di una riflessione, di un bilancio anche politico. Oggi mi fa piacere ricordare una frase di Giulio Andreotti, che di frasi fulminanti ne ha dette tante. Lui diceva: la gratitudine è la virtù della vigilia. La frase si spiega da sola, e ieri Di Maio è stato pugnalato da chi nei suoi confronti doveva grande gratitudine. Sì, grande gratitudine che poi ieri tra l'altro è stata espressa in parte anche dalle stesse persone che l'hanno pugnalato. Gli hanno detto: lo ringraziamo per lo splendido lavoro svolto, e poi però insomma è successo quello che è successo, e lui stesso lo ha raccontato. Se tu avessi Andreotti collegato ti farei una seconda battuta. Ah, sì, io non sono Andreotti, sicuramente. Quindi mi limito a ricordare la sua, che però è davvero molto significativa. Sicuramente. Ascolta, la fotonotizia di oggi del Sole 24 Ore è dedicata a un caso particolare. I nostri ascoltatori ricorderanno e conoscono, insomma, l'avranno visti in giro, i negozi di Grom, la società fondata nel 2003 che produce gelati di alta qualità, e che poi fu venduta alla multinazionale Unilever nel 2015, la multinazionale anglo-olandese. Ebbene, stanno chiudendo a raffica un po' di negozi di Grom. Beati i fondatori che, vendendo l'iniziativa che hanno avviato con grande successo, si sono arricchiti, hanno sistemato qualche generazione di eredi. ma era un'esperienza unica, era un gelato artigianale, aveva le gelaterie diffuse sul territorio. È chiaro che Unilever è un altro film, è una multinazionale. La favola magica di Grom non poteva continuare e difatti è finita forse male per quello che era l'idea iniziale, ma io credo che alla fine i fondatori sono ancora lì, che si ubriacano e che brindano al grande affare fatto, e anche Unilever ne trarrà i suoi vantaggi, perché alla fine Grom, come marchio diffuso nella grande distribuzione, ha un suo significato e probabilmente darà a Unilever le soddisfazioni che si aspetta. Che la stessa, certo, cioè, la favola del gelato artigianale è finita male. Sì, forse era già finita quando hanno venduto ad Unilever. Detto ciò, rimangono aperte 46 gelaterie, però c'è un programma di chiusure. Allora, grazie anche per oggi al nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Ci fermiamo. GR24, ci risentiamo subito dopo con Maria Latella. Parleremo di mafia e poi avremo ospiti, il candidato del centro-sinistra in Calabria e quella del centrodestra in Emilia Romagna.